Summertime di Elisabetta Fiorito. Andate, non sapete a far che cosa. Cesare in che meritò tanto affetto, ancora non sapete. E ve lo dico io, avete già scordato il testamento. Buon pomeriggio e oggi a Summertime noi andiamo subito a Villa Borghese a Roma, al Globe Theater, dove un grandissimo attore interpreta un grandissimo ruolo. Diamo il benvenuto a Giorgio Albertazzi nei panni di Giulio Cesare. Buon pomeriggio, maestro. Grazie altrettanto. Buongiorno. Allora, lei ha interpretato Prospero, sempre al Globe Theater, adesso Giulio Cesare. Quanti ruoli shakespeariani ha interpretato nella sua carriera? Più di chiunque altro, credo, 15 protagonisti. Ma aveva mai fatto Giulio Cesare? Ma come hanno fatto Giulio Cesare? Ho fatto tutto. Io qualche anno fa, quando era sindaco Veltroni, abbiamo costruito un teatro tra il Colosseo e l'Arco, che c'è lì, un teatro intero. Io ho fatto tutto il Giulio Cesare da solo. Da solo, con la regia di Calenda, facevo tutti i ruoli, da Giulio Cesare a Bruto, Marcantonio e gli altri erano tutti mascherati, era uno spettacolo molto particolare, quindi lì l'ho fatto, ma all'interno, diciamo, di tutta la messa in scena, era il ruolo esattamente come qua Giulio Cesare è il title, il ruolo del titolo, io così, in un testo completo non l'avevo mai, è la prima volta che lo faccio, ho sempre fatto Marcantonio, anche nell'ultimo spettacolo shakespeariano che si chiamava Amleto e altre storie, facevo un Giulio Cesare lì dentro, un po', diciamo, lavorato da me con il concorso di altri autori, eccetera, però così adesso uscirò insanguinato perché la scena della morte è veramente raccapricciante. Ecco, ma è uno spettacolo con più di 30 attori e quindi proprio il testo viene rispettato alla lettera, questo ci sta dicendo. Logico, questa è l'idea di Proietti che dirige il Globe e anche del regista, insomma, no? Cioè di fare rispettare filologicamente il testo. Questo mi sembra una buona idea, perché le operazioni di intervento sui testi di Shakespeare le fanno anche in Inghilterra, anzi soprattutto le fanno in Inghilterra, però quindi è bene che ci sia un luogo dove invece si rispetta, insomma. Ecco, allora parliamo di questa scena che ci accennava, la scena della morte, dell'uccisione, dell'assassinio. Che cosa succede? Succede che, insomma, Cesare va al Senato, non doveva andare perché i pronostici dicono di no, Calpurnia, la moglie, lo prende per legame, non vuole che vada perché tutti dicono che sarà la morte. E allora il Senato si riuniva davanti, dopo adesso c'è il Teatro Argentina, al teatro, al Quadriportico di Pompeo, lì c'era un teatro intitolato a Pompeo, che come si sa era morto prima a causa di Cesare. Quel teatro andava fino al Tevere, cioè teneva 15.000 persone. Lì si svolge quella mattina del 15 marzo, cioè le Idi di marzo del 44 a.C., si svolge la seduta del Senato. Cesare invece va, sordo a tutti i messaggi che gli consigliano per strada, eccetera, di non andare, e a un certo momento i congiurati lo attaccano e davanti a tutto il Senato, perché gli altri rimangono impietriti. A questi congiurati gli danno 23 coltellate. Ora lui si difende all'inizio pare avere la meglio, perché era comunque uno capace, forte, eccetera. Tosto. Tosto, sì. Però poi quando vede Bruto, che anche lui lo sta per colpire, allora dice, et tu Brute, è la famosa frase, insomma, anche tu Bruto. E allora dice, allora Cesare cada. Ma i ragazzi, cioè i ragazzi, i senatori, gli attori hanno un pugnale speciale, che colpisce e fa sangue, quindi io sono vestito di bianco, loro sono vestiti di nero, è bella l'immagine, e sì, questo sono insanguinato, coperto di sangue, è una cosa raccapricciante, anche schizza questo sangue, Vabbè, insomma, comunque. Quindi, insomma, lei ci sta dicendo che questo assassinio avvenne davanti al Teatro Argentina. Quindi... Sì, dove adesso c'è, lì sotto c'è, visto, ci sono i resti. Sì, no? Sì, ci sono i resti. Sì. Ma e quindi non avvenne mai al Campidoglio, quindi questa no, scena no. famosa con Marlon Brando che porta in no, braccio no, quello, Cesare no, dopo... e che praticamente scende le scale è un falso storico. No, non è un falso storico. Dopo loro, i congiurati, prendono il cadavere di Cesare e lo portano ai rostri. E lì fanno gli interventi. Bruto racconta perché è stato ucciso al popolo. Dice che amava Cesare, ma amava più Roma. Ha ucciso Cesare perché Roma sia libera, cosa che è tutta da vedere. E così uccide il più grande personaggio della storia. Ed è lì che Marco Antonio fa il discorso famoso, insomma, che faceva Marlon Brando e che ho fatto anch'io tante volte. Uno dei miei pezzi. E che lei ascolterà praticamente da finto morto con tutto quanto il sangue nella sua bellissima toga bianca. Sì, perché devo stare sdraiato lì parecchio tempo, abbastanza, insomma, un ventina di minuti, certo, sì, fermo, immobile. Questa è la prima volta che faccio un morto, no? Tante volte ho fatto, si sa che anche gli eroi muoiono, ma questa volta Giulio Cesare non l'ho mai fatto. Fa un grande effetto, Giulio Cesare, nessun personaggio della storia, forse Alessandro Magno, è all'altezza di questo uomo straordinario, e evidentemente caro agli dèi per un lungo periodo. Ecco, ma qual è il personaggio shakespeariano che le piace di più interpretare, a parte Giulio Cesare? Che mi piace più interpretare non lo so, però c'è un personaggio che ti accompagna per tutta la vita, come per me è... E Adriano, per le memorie di Adriano, di Margherita Senna, che ho fatto quasi 800 repliche e che quest'anno si riprenderà al Teatro Parioli per l'ennesima volta, l'ho fatto in tutto il mondo. Però di Shakespeare credo che resti comunque l'Amleto. E l'Amleto è il testo, forse più uno fra i testi più imperfetti di Shakespeare, ma proprio per questo è il più geniale, perché consente all'interprete di diventare un artista. E inventare, insomma, non semplicemente eseguire, dire parole scritte da altri, recitare, che è un'operazione, secondo me, non di grande livello nel teatro. Allora, ricordiamo che dal 9 al 26 agosto al Globe Theater un grande, io la definisco il più grande attore italiano, Giorgio Albertazzi, in Giulio Cesare, e soprattutto vedremo un Giulio Cesare insanguinato, sì. In attesa di questi discorsi. Io fa paura, ieri ho visto alle prove quelli che stavano lì a guardare, erano impressionati veramente, si mettevano le mani sulla... Le assistenti, le mani, perché fa effetto effettivamente, insomma, non è... Vabbè. Al Globe Theater, che interpreta Giulio Cesare, mentre, come ci ha accennato, durante la prossima stagione ritorna un altro imperatore, questa volta Adriano, memoria di Adriano, al, mi ha detto, Parioli, giusto? Al Parioli, sì, al nuovo Parioli. Grazie maestro. Grazie a voi, buongiorno. E noi andiamo a Bolzano, al Festival Busoni, dove questa sera si esibisce uno dei più grandi pianisti contemporanei, Stefano Bollani, insieme a un giovane, Claudio Filippini. E io do il benvenuto sia a Stefano Bollani sia a Claudio Filippini. Partendo da Stefano Bollani, che cosa vuol dire Bollani and Friends? Ciao, buongiorno, grazie per il contemporaneo che fa sempre piacere. Senti, vuol dire semplicemente che essendo noi nella città di un prestigioso concorso pianistico, volevamo organizzare una serata incentrata sul tema del pianoforte e a me è stato chiesto di portare due amici, di scegliere insomma la compagnia di giro. E io quindi ho chiamato Francesco Grillo e Claudio Filippini appunto per tentare di fare una serata in cui ognuno suonerà le proprie cose, poi magari gestiremo una serie di duetti e così dare una prospettiva su quello che succede nel mondo del pianoforte oggi in Italia. Nel mondo del pianoforte jazz? Ma non solo, io credo che in questo caso non c'è caso di parlare di usare l'etichetta, anche se quella di jazz è l'etichetta che a me piace di più, nel senso che non è un genere musicale ma è un linguaggio. Forse nel mondo della musica improvvisata, sì, se vogliamo, ma anche, sai, per esempio Grillo scrive dei brani dove l'improvvisazione è presente fino a un certo punto, per cui magari no, si dovrebbe parlare per lui di musica contemporanea, quindi vabbè, chiamiamolo il mondo della musica, va? Nel mondo della musica per sognare. Claudio Filippini, che vuol dire suonare insieme a Bollani? Ciao a tutti innanzitutto, ciao Stefano. Suonare con Bollani, che dire, lui è un istrione, è uno dei miei punti di riferimento. Tra l'altro devo dire di aver già avuto la fortuna di suonare con lui una volta nell'ambito della trasmissione del dottor Gembè, quindi... Ma è vero, insomma, che ti ha scoperto lui? Ma mi ha scoperto, diciamo, ci siamo conosciuti, mi ha conosciuto tanto tempo fa, quando mi ha sentito suonare in un festival. Lui era giovanissimo, figurati, ero ancora più giovane, e insomma da allora siamo rimasti sempre comunque in contatto. Per me comunque lui è veramente il numero uno, quindi sono veramente contento di partecipare a questa manifestazione e sono sicuro che insomma ne vedremo delle belle. Stefano Bollani, che cosa vuol dire suonare a un certo punto con altri due pianisti e improvvisare? Perché per noi è tutto quanto impossibile, per chi non suona soprattutto è una cosa astrusa, anche col jazz non si capisce mai, perché poi c'è tutta l'improvvisazione e diciamo, ma come fanno a non impicciarsi, per esempio, no? Guarda, la cosa più inquietante del suonare con un altro pianista, cosa che a me piace e cerco di fare spesso, ammetto, è che appunto quando tu togli le mani dalla tastiera senti un altro che ha un suono simile al tuo, che quindi, a prescindere dalle note che fa, ha proprio un suono simile, no? E per cui voglio dire, le stesse note fatte da una tromba ti aprono un mondo, le stesse note fatte da un pianista, quindi da uno strumento simile a quello che hai sotto le dita, possono anche irritare. Bisogna avere molto relax, devo dire, però la chiave è sempre la stessa, bisogna ascoltarsi e sapere ascoltare, altrimenti non c'è niente da fare, puoi avere due grandissimi musicisti sul palco ma ottenere semplicemente o una sfida o addirittura, peggio ancora, due persone che si ignorano e suonano ognuno per conto proprio. Ma questo non succederà. Stefano, invece, che cosa manca alla musica in Italia? Quale recriminazione fai ai discografici, insomma, in generale, a livello culturale? Guarda, io ora te la faccio volentieri, però dovremmo smettere di lamentarci. Bravo, io te l'ho chiesto, però trovo che questo sia uno dei maggiori difetti italiani. Ecco, perché noi ci lamentiamo tanto e ultimamente lo sento dire meno, ma spesso prendiamo l'esempio dell'estero. All'estero è vero che, per esempio, così arrivo a rispondere alla tua domanda, è vero che in Francia hanno sempre avuto più soldi di noi a disposizione per la cultura, ma è anche vero che ultimamente glieli stanno tagliando. È vero che in Scandinavia suonano molto più jazz che da noi, ma è anche vero che l'età media del loro pubblico è molto più alta, noi abbiamo molti più giovani ai concerti, da loro veramente il pubblico del jazz inizia dai 50 anni in su, per cui voglio dire, abbiamo molte cose positive, per esempio il pubblico, per esempio tanti musicisti giovanissimi che suonano e si fanno notare a livello internazionale. Dopodiché sul modo di investire i soldi, i pochi soldi che stanno rimanendo per la cultura, invece ci sarebbe da dibattere, perché è vero che sono sempre meno, però è anche vero che spesso vengono usati male. Questa sera al Festival Busoni a Bolzano, Bollani and Friends, e ci saranno quindi tre pianoforti sul palco. Saranno due i pianoforti sul palco, così per metterci in difficoltà e vedere come facciamo in tre a suonare due pianoforti, se no non c'è gusto. Se no sono buoni tutti. Certo, sempre più difficile. Claudio, sei spaventato? No, assolutamente no. Claudio non è uno che si spaventa, suona no, talmente bene perché si dovrebbe spaventare. Ma più che altro io mi spavento di più quando so esattamente che cosa devo suonare, quindi so già, quando invece è un po' un volo alla cieca, anzi sono più contento. Risposta da jazzista questa. Sì, assolutamente. Assolutamente. Ringraziamo allora anche per la simpatia e ricordiamo l'appuntamento al Festival Busoni con Bollani and Friends, e quindi Claudio Filippini e Stefano Bollani. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso. Andiamo a Ravello, dove questa sera c'è uno spettacolo un po' particolare, Memorie di Adriano, ma Adriano non è l'imperatore, bensì Metti una sera con Celentano in jazz. A dirigere tutto questo ambaradan, uno dei grandi della musica italiana, Beppe Servillo. Buon pomeriggio, Beppe. Buon pomeriggio a voi, grazie. Beh, noi stasera in realtà proporremo il repertorio del clan, ovvero le canzoni tra gli anni 60 e 70 di Adriano Celentano, perché secondo noi quella è stata un'esperienza fondamentale per la musica popolare italiana, per il cosiddetto pop, dove gran parte del repertorio affonda le radici nella nostra cultura folk e popolare, e buona parte di esso strizza un po' l'occhio alle esperienze che provenivano all'epoca da oltreoceano. E tutto questo, secondo noi, dà uno specchio anche del paese, attraverso la lente della musica leggera, interessante. E poi per noi, soprattutto per i miei compagni di viaggio con i quali mi occupo di cantare queste canzoni, il confrontarsi con la canzone, quindi con del materiale musicale popolare, è sempre grande fonte di ispirazione. Adriano Celentano in chiave jazz, ma io non riesco a immaginarmi, che ti posso dire, sei rimasta sola, capito, con in chiave jazzistica, oppure Ragazzi della Via Gluck, o peggio ancora Azzurro. Si può immaginare, noi abbiamo avuto grande rispetto della scrittura, ovviamente nei testi, ma anche nella melodia delle canzoni. Poi, ripeto, la tradizione americana da sempre insegna che il jazz trova fonte di ispirazione nella canzone popolare, lo ha fatto anche addirittura di recente con grandi interpreti come Miles Davis ed altri ancora, quindi perché nel nostro piccolo non provare a farlo anche noi, proponendo un repertorio che, ripeto, è a metà anche tra la canzone e il teatro, che quindi è molto vicino a una vena assolutamente italiana del fare canzone. E tu, che ti conosciamo anche come Avion Travel, no? Sì. Non sei nuovo a questi esperimenti, perché poi avete fatto anche Frank Zappa e Domenico Modugno. Sì, beh, per me la rilettura del repertorio che si ama, il praticare anche la memoria riproponendone una chiave nuova è un valore fondamentale, anche se poi bisogna confrontarsi con la tradizione mettendoci carne e sangue, cioè prendendosi dei rischi, perché poi chi interpreta in qualche modo finisce anche, seppur in piccola parte, per essere anche autore di ciò che propone. E secondo me questo definisce assolutamente il percorso di un artista tanto quanto le canzoni, per così dire, inedite. In scena siete tu, che fai la voce, Beppe Servillo, Javier Girotto il sax, Fabio Bosso la tromba, Fabrizio Bosso la tromba, Rita Marco Tulli al piano, e Mattia Barbieri alla batteria, Furio Di Castri al contrabbasso. Quindi, insomma, quanto dura uno spettacolo simile? Ma lo spettacolo dura un'ora e mezza, un'ora e tre quarti. È uno spettacolo che, come dire, poi si avvale anche delle grandi capacità solistiche di questa parata di stelle del jazz italiano, e quindi, come dire, ha anche una durata che va con l'improvvisazione. Più sulle emozioni anziché sul cronometro. Ecco. Sulle emozioni, sull'improvvisazione, immagino, i suoi seduti musicisti jazz. Allora, una cosa, al palco del Belvedere di Villa Rufolo, un napoletano come te, lo possiamo dire, che interpreta un milanese come Adriano Celentano, è un po' anomalo però. Beh, però io ho avuto la fortuna su quel palco l'anno scorso di suonare con i soli string quartet in spassionatamente. Questo è assolutamente napoletano, quindi il pubblico che mi viene a trovare mi conosce, quindi mi concede anche la possibilità di fare queste discussioni, anche perché poi io non penso mai al repertorio in termini campanilistici, pur amando profondamente la tradizione. Ho cantato canzoni in napoletano scritte da Paolo Conte, ho tradotto sue canzoni in napoletano. Io penso che alla fine non bisogna essere filologi, bisogna avere cuore e sentimento nel cogliere l'intenzione di un'espressione di una canzone. Ringraziamo allora Beppe Servillo, che abbiamo sentito in questa rappresentazione molto particolare in memoria di Adriano Celentano, anche molto ironico il titolo, con lui alla voce e molti musicisti jazz che ripropongono i successi del supermoleggiato. Grazie Beppe. Grazie a voi, a presto. Pochi, pochissimi musicisti sono stati così prolifici, così famosi in tante versioni. Noi siamo abituati a sentire le sinfonie soprattutto di Beethoven, però Beethoven è anche un musicista che rappresenta uno strumento molto importante che è il pianoforte. Per ricordarci queste bellissime sonate di Beethoven, andiamo al Festival Città di Cernobbio, dove Christian Leotto, pianista ovviamente, ci dedica queste bellissime sonate che sono La vita, l'amore e l'eternità, l'anima di Ludwig van Beethoven al pianoforte. Buon pomeriggio, Christian. Buon pomeriggio. Allora, è così? Cioè, alla fine Beethoven è il pianoforte? Perché noi ci piace sempre pensare all'Inno alla Gioia, alla Sinfonia Massima, alla Nona. Ma sicuramente il pianoforte era lo strumento privilegiato, il confidente più intimo di Beethoven durante l'arco di tutta la sua produzione, dagli inizi fino alle ultime composizioni. Anzi, bisogna dire che tutto quello che poi è diventato scrittura orchestrale, sinfonica, corale, sacra, è scaturito da esperimenti nati alla tastiera proprio con le sonate di Beethoven, che raccolgono una produzione dall'opera 2 all'opera 111, è davvero vastissima, e descrivono tutta l'evoluzione e la meraviglia della produzione beethoveniana. Cosa vuol dire suonare Beethoven per un pianista? Ma è qualcosa intanto di meraviglioso, ma è una responsabilità enorme prima di essere un grande privilegio, perché è una musica talmente esatta, ogni battuta, ogni nota, ogni frase, sappiamo esattamente cosa voleva perché ce lo ha detto con immensa chiarezza. Quindi e questo poi è soltanto il primo passo, cioè riuscire a comprendere il suo messaggio tramite la scrittura. Passaggio successivo è quello più emozionante, metafisico, è quello di renderlo attuale, cioè di interpretarlo e soprattutto di farlo di trasmetterlo al pubblico. Quindi la funzione del pianista è di un medium fra un'anima immortale, straordinaria come Beethoven e il pubblico che ci sta ascoltando in quel momento, quindi far rivivere questi capolavori in un certo senso, quindi dopo averli compresi, essendo fedelissima alla partitura, però ricreandoli. Insomma, grazie per ricordare, no, anche la vita di questo musicista che sappiamo scrisse appunto la Nona e scrisse molte delle musiche quando già era stato colpito da sordità. Questa è la cosa eccezionale, sì, no? Certo. Allora, Christian Leotta, pianista, suona Beethoven, La vita, l'amore e l'eternità, l'anima di Ludwig van Beethoven al pianoforte al Festival Città di Cernobbio. Grazie Christian. Ti ringrazio tanto. Uovo di gatto, gatto ci cova, gatto un po' matto, chi cova le uova, corri vicino, vola lontano, l'uovo si rompe e appare un... Gabbiano. E noi andiamo a Jusso in provincia di Torino, sperando di aver pronunciato giusto questo bellissimo paese, che ospita una rassegna molto carina dedicata anche ai più piccoli, perché da oggi fino al 15 agosto si inizia con La gabbianella e il gatto, poi si va ai Beatles, Jack Frusciante, La bambina che raccontava i film, Dante, la sua commedia, la nostra storia, alla Fortezza. Noi diamo il benvenuto qui a Summertime all'attrice Cristiana Voglino di Assemblea Teatro, che ci illustra questo spettacolo alla Fortezza di Fenestrelle, La gabbianella e il gatto. Che cosa fate? La gabbianella e il gatto è questo spettacolo meraviglioso, ispirato ovviamente, anzi tratto dal testo di Luis Sepúlveda, ed è molto carino come lo realizziamo, perché in realtà, vabbè, io in particolar modo faccio le voci di tutti quanti i personaggi, quindi un gioco col corpo e con la voce a interpretare nel dialogo tutti i vari personaggi. Mi diverto come una pazza, anche perché forse l'alternativa è quella di essere considerata schizofrenica, invece va benissimo. Quindi fai la gabbianella e il gatto insieme? Faccio la gabbianella e tutti i gatti, perché di gatti ce n'è una marea, c'è il segretario, c'è Gatto Zorba, c'è, ci sono, vabbè, poi oltretutto c'è la scimmia, lo scimpanzé Mattia, che è uno dei personaggi che ai bambini diverte di più perché è il cattivo della situazione, faccio sopravvento, faccio cambio da un personaggio all'altro, e è un trasformismo che è vocale, corporeo, non è nei costumi. E poi insieme a me ci sono altri attori, che sono Pietro Del Vecchio, che canta e interpreta straordinariamente un personaggio che è il gatto Harry, poi c'è Andrea Castellini che fa il gatto Colonnello, e poi c'è Monica Calvi che realizza dal vivo i disegni che accompagnano la storia, no? Lo spettacolo è stupendo. Io, nonostante le 200 fischie repliche, tutte le volte lo ammetto. Ti emozioni? Sì, no, tantissimo, tantissimo. E il pubblico, ovvio, anche. Anche. Allora, ringraziamo Cristiana Voglino di Assemblea Teatro, che apre questa bellissima rassegna a Usso, alla fortezza di Fenestrelle, in provincia di Torino, che andrà avanti fino a Ferragosto. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.